Questo? Perché in carcere il tempo non passa mai. Sì, perché è una fiaccola. Cosa vuoi che ti dica? Che sono anarchico? Anarchico? Legalista? Illegalista? Scientifista? Naturalista? Trotskista? Marxista? Anche un po' nudista? Beh, in un certo senso. Ma a me di popoli sfruttati e rivoluzioni non me ne frega un cazzo. Io la mia rivoluzione me la faccio da solo, tutti i giorni fottendo questi ricchi maiali e le loro banche. Bravo, hai già risolto tutto, mi pare, quasi ti invidio. Ehi, guarda che anch'io mi sono fatti i miei begli anni di volantinaggio. A stampare manifestini, nei sottoscala, e sottoscala sono basse, se ti alzi, bam, batti la testa e poi manifestazioni, bastonate, testate, bastonate. E intanto loro continuano a ingrassare con il nostro di lavoro. E allora l'unico modo è inceppare la macchina. E come fai a inceppare la macchina? Li prendi ciò che hanno di più caro. E cos'è che hanno di più caro? Io sento che la soluzione è su di te. Metti una mano nel taschino, il titolo del libro è l'unico della sua proprietà, tu togli, l'unico rimane... La proprietà. Ah, bravo! E la vorresti inceppare da solo la macchina? Da solo o con qualche amico fidato. Io intanto non morirò di rimpianti e soprattutto non leccherò il culo a nessuno. La prima parte dello spettacolo In ogni caso nessun rimorso, ispirato all'omonimo romanzo di Pino Cacucci, per la regia di Mauro Pasqualini, con Elisa Proietti, Andrea Sorrentino, Mauro Pasqualini, musiche originali dal vivo di Adele Pardi. La seconda parte andrà in onda in questa trasmissione il prossimo martedì 24 maggio 2022 e sarà in scena a Roma, al Teatro Vittoria, dal 17 al 22 maggio 2022. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Francesco Perrone, direttore artistico dell'ottava edizione di In Box dal vivo a Siena dal 16 al 21 maggio 2022, ben trovato. Grazie, grazie a te Federico e a chi ti ascolta. Raccontiamo subito cos'è In Box. Intanto parto dicendo che non sono solo, io assieme al mio collega Fabrizio Trisciani coordiniamo il progetto. In Box sono due reti nazionali, In Box Verde, una dedicata alla prosa e alle sue contaminazioni con gli altri linguaggi della scena e l'altra, In Box Verde, invece è dedicata al teatro ragazzi. Sono due reti nazionali, complessivamente contano circa 80 teatri in giro per l'Italia ed è un progetto di promozione teatrale, quindi l'obiettivo è quello di selezionare e dare sostegno concreto alle compagnie e agli artisti emergenti della scena teatrale contemporanea. Lo facciamo tramite due bandi che escono ogni anno e che mettono in palio delle tournée di repliche a cachet, ovvero diamo la possibilità a questi artisti, a queste compagnie di mettere in scena i loro lavori nei teatri che sono partner del progetto e quindi che fanno parte della rete e quindi di confrontarsi con il pubblico, di portare le loro opere a quante più persone possibile, cioè fare la missione fondamentale che dovrebbe svolgere il teatro, fare questo venendo pagati, perché il teatro è una bellissima arte ed è una bellissima passione, più spesso ci si dimentica che è anche un mestiere. E che chi fa questo mestiere deve vedere riconosciuta anche la dignità professionale ed economica del lavoro che fa. E quindi appunto da qui nasce l'idea e il piccolo successo che In Box ha avuto in questi anni, perché tantissime compagnie, ogni anno ne partecipano circa 500, poi tra queste ne scegliamo 12, 6 per In Box e 6 per In Box Verde, che vengono poi ospitate In Box dal vivo, e però questa rosa di compagnie selezionate è poi quella che è la rosa a cui vengono assegnate le repliche in palio. Quest'anno in tutto sono 105, quindi è un numero significativo, soprattutto se consideriamo che appunto vanno a compagnie che ne hanno tanto bisogno, perché è tanto in generale il bisogno di poter circuitare, poter incontrare il pubblico, di farlo in contesti adeguati e a delle condizioni adeguate, e quindi questa è la missione In Box e lo strumento con cui la mette in atto. Tre gli spazi, tre teatri, come sarà strutturato? In Box dal vivo, per l'appunto, è la fase finale di selezione dei due bandi. Quindi i 12 spettacoli finalisti vengono ospitati nei teatri di Siena, quindi in teatri comunali che il Comune di Siena ci mette a disposizione. Il Comune di Siena è uno dei partner sostenitori del progetto da tanti anni, e queste 12 compagnie, quindi al Teatro dei Rinnovati, al Teatro dei Rozzi e al Teatro del Costone, mettono in scena integralmente i loro lavori davanti alle giurie, che sono composte per l'appunto dai partner delle due reti, ma anche davanti a altri operatori che vengono apposta nella settimana di Inbox dal vivo, davanti alla stampa, che anche questa viene un po' da tutta Italia, soprattutto davanti al pubblico, perché poi comunque per noi è fondamentale che Inbox dal vivo sia, oltre che un momento di fiera e di lavoro per appunto gli addetti ai lavori, sia anche un grande momento di festa e di incontro in primo luogo con la realtà cittadina, territoriale che ci ospita, e quindi con Siena e con i suoi abitanti e con le sue anime, insomma. E quindi abbiamo anche attive tante collaborazioni con le realtà del territorio, a partire dal comune ma anche l'università ed altri, per cercare di coinvolgere il più possibile la città e far sì che questo evento Inbox dal vivo sia un festival vero e proprio che offre una selezione del meglio, delle realtà più interessanti, secondo il nostro opinabile parere, di quello che c'è in giro per l'Italia teatrale oggi. Partiamo lunedì 16 maggio con la sezione Inbox Verde, quindi quella dedicata ai più piccoli, e siamo molto contenti, come dicevo prima, finalmente di riuscire a portare a teatro i bambini. Verranno 400-500 alunni delle scuole di Siena e della provincia. Finalmente, dopo due anni di stop, riusciamo a riportare bambini e ragazzi a teatro, e quindi questo ci fa enormemente piacere. E appunto 16, 17 e 18 maggio sono i tre giorni dedicati a Inbox Verde, al termine dei quali verranno distribuite le repliche, quindi proclamato poi il vincitore di Inbox Verde, che sarà lo spettacolo che se ne aggiudicherà di più. Giovedì 19 attacchiamo con la sezione da grandi, chiamiamola così, 19, 20 e 21 maggio, altri sei spettacoli, altri sei finalisti di Inbox. Al termine sabato, insomma, succederà la stessa cosa, quindi distribuzione delle repliche e proclamazione del vincitore di Inbox. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli? Il punto di partenza fondamentale è il sito, quindi www.inboxproject.it. Lì si trovano tutte le informazioni relative ovviamente al programma e quindi agli spettacoli in gara, quando sono, dove sono, e le schede artistiche, si può cominciare a conoscerli e a capire di che cosa si tratta. E poi ci sono tutte le informazioni per l'acquisto dei biglietti, anche per venire a Siena, un'altra cosa che vorremmo che succedesse anche di più, quindi c'è modo di contattare poi il nostro ufficio accoglienza per avere delle informazioni, in particolare penso poi agli operatori, agli addetti ai lavori che fossero interessati. Mi piace e mi preme sottolineare, come dicevo prima, come Inbox sia un progetto a rete. Inbox esiste perché esistono 80 teatri in Italia, dal Trentino fino alla Sardegna, che hanno deciso di investire tempo, risorse, anche risorse economiche per farlo funzionare. Quindi senza la rete dei teatri di Inbox il progetto non potrebbe esistere. Ottava edizione di Inbox dal vivo, Emergenti Forever, il sottotitolo quest'anno a Siena dal 16 al 21 maggio 2022. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Francesco Perrone. A presto! Grazie mille, ciao! Con Lorenzo Marvelli per presentare il suo libro Le sorelle di Alcesti. Ben trovato. Buongiorno, ciao Federico, ciao. Che racconto è il tuo? È un racconto che nasce dal teatro e che ad un certo punto lascia il teatro e diventa realtà, una realtà insomma abbastanza difficile, quella che abbiamo attraversato in questi ultimi due anni e mezzo, che è quella dell'infezione da Covid, della pandemia. Prima che tutto questo accadesse ero con il mio collettivo di teatro a lavorare sull'Alcesti, discutevamo di come mettere in scena questa discesa all'inferno e poi ritorno alla vita, e mentre appunto discutevamo e cercavamo di mettere in scena questo lavoro, l'inferno arriva nella realtà. Io, come sai, sono infermiere di 118. E ad un certo punto arriva il Covid, quindi lo spettacolo si interrompe ed inizia una discesa all'inferno reale, nel senso che quando tutto comincia non ci capivamo proprio un tubo, sapevamo quello che stava accadendo, avevamo solo un sacco di morti nei reparti. Ed una sera faccio un intervento in ambulanza in un ospizio, entro in questo ospizio dove ci avevano detto esserci una vecchina con la febbre, invece io entro e mi rendo conto che tutti avevano la febbre, che il personale non c'era più, alcuni si erano ammalati, altri erano scappati, e queste suorine erano da sole con queste persone. E da lì scatta un allarme, insomma io mi chiudo in questo ospizio per spegnere il focolaio e qualche mese sono stato lì con queste signore e quindi ho vissuto nella realtà il percorso dell'Alcesti che nel frattempo avevo interrotto a teatro. Quindi racconto in maniera parallela questo spettacolo che stava nascendo e questa pandemia che stava nascendo. Le due materie si intrecciano e danno vita ad un racconto. Per quello che mi riguarda, a lieto fine, nel senso che poi abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, cioè abbiamo salvato queste signore, queste donne anziane nell'ospizio in un progetto molto folle, le abbiamo trasferite in un hotel a Pescara, una cosa incredibile. E invece lo spettacolo si è interrotto, nel senso che quando tutto è finito ci siamo rivisti per le prove, non avevo più l'energia per mettere in scena l'Alcesti. E il libro racconta tutto questo, insomma, tra teatro e realtà, continui salti dalla tragedia di Euripide alla mia esperienza di vita professionale di infermiere del 118. Che esperienza è stata per te? Incredibile. Io adesso non so se ci sono riuscito anche nel libro a spiegare questa cosa. Mi ha riempito di emozioni così contrastanti e così conflittuali, nel senso ero pieno di gioia, la mattina non vedevo l'ora di chiudermi con loro, però nello stesso tempo di paura, di tristezza. È stato molto molto sconvolgente, a volte anche traumatico. Tieni presente che io per quel periodo non tornavo a casa perché avevo mio figlio, avevo la mia compagna e quindi avevo paura di portare a casa il virus, quindi dormivo in una stanzetta che mi ero ricavato nella mansarda, quindi sono stato mesi senza vedere la mia famiglia e la mia famiglia è diventata questo ospizio. È il luogo di lavoro, il 118, i miei colleghi, quindi non saprei dirti con precisione ciò che mi ha provocato, però sicuramente emozioni assolutamente mai provate. Io sono stato pure a lavorare un anno in Somalia, in un ospedale somalo a Mogadiscio nel 97 durante la guerra che poi non è mai finita, e anche quella è stata un'esperienza difficile, però qui è stato tutto molto sconvolgente perché inaspettato e poi è stato, per quello che riguarda la mia esperienza personale, incredibilmente vicino al teatro che stavo facendo, se non la stessa cosa. E di qui il titolo, no? Le sorelle di Alcesti sono le vecchine che mi hanno accompagnato in questa esperienza di lavoro. Come hai deciso di mettere per iscritto questa esperienza? Tenevo una sorta di diario che mi serviva un po' per mettere ordine al lavoro dentro questa casa di riposo, quando eravamo chiusi lì proprio nei momenti più difficili. E pian piano mi sono reso conto che questo diario era anche bello da leggere, cioè io poi il giorno dopo rileggevo gli appunti del giorno precedente e ho detto potrebbe diventare un racconto, oltre che essere un insieme di appunti di lavoro. E quindi è nato così. E anche qui, insomma, la realtà che diventa letteratura, no? Nel senso che gli appunti che prendevo di giorno in giorno alla fine diventano un libro. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli, per saperne di più? La mia casa editrice si chiama Across Alive. È una casa editrice di Bologna, oltretutto il direttore di questa casa editrice è un infermiere, quindi pensa che casualità, un infermiere che è stato in Afghanistan con Emergency, insomma è un tipo tosto, lui è a questa casa editrice che pubblica appunto libri che hanno queste caratteristiche, che raccontano di cura, di assistenza, di progetti dentro contesti di guerra, quindi il libro è possibile prenderlo direttamente sul sito oppure circola nelle librerie indipendenti, così. Il libro Le sorelle di Alcesti, un saluto e un ringraziamento all'autore Lorenzo Marvelli. A presto! Grazie a te e a presto come sempre Federico. Ciao! Con lo scultore Andrea Gandini per presentare la sua arte di strada, ben trovato! Ciao Federico! Raccontiamo un po' qual è la tua arte di strada, di cosa stiamo parlando. Ho iniziato all'incirca 7 anni fa a fare delle opere per strada su dei tronchi tagliati, quindi sono principalmente a Roma, ma anche in altre città italiane. Praticamente sono questi alberi che per una ragione o per un'altra vengono abbattuti. Spesso sono malattie, adesso ce ne sono tante che circolano, e quindi rimane questa sezione. Io con questa sezione praticamente tiro fuori una scultura, quello che il tronco un po' mi ispira, ecco. Com'era nato tutto? Io ho iniziato a fare delle piccole sculture in legno in laboratorio e successivamente ho finito il legno praticamente, perché lo prendevo sempre comunque dalle potature che si facevano in giro. Poi un giorno ho finito il legno, ho fatto la prima scultura appena fuori dal garage e ho visto che mi piaceva anche l'interazione con il pubblico, perché tanti artisti, tanti creativi stanno magari 9 mesi su 12 dentro lo studio e può essere logorante come cosa, quindi mi sono proprio innamorato dell'incontro con le persone e facendo una cosa così particolare c'era sempre una reazione positiva e stupita, quindi si creava la condizione per fare anche delle conversazioni interessanti, ecco. Perlomeno i primi anni sono stati molto interessanti, poi a un certo punto ho iniziato a vedere delle sovrapposizioni per cui appena arriva una persona probabilmente riesco a indovinare già cosa dirà. Io ho avuto modo di conoscerti nella una delle vie del mio quartiere, ho visto questi tronchi mozzati con le tue sculture e poi tempo dopo ho avuto modo di vedere come giurato il documentario dedicato proprio al tuo lavoro, Alberi Cittadini. Sì, e, sì, sì. E allora mi sono detto troppi segni, devo sentirlo, questo artista. E così è successo e mi interessano 2 aspetti del tuo lavoro in particolare. Uno è il riuso, dai comunque una nuova vita a una pianta morta, insomma, in qualche modo è farla rivivere. Esatto, sì, l'obiettivo è quello, nel senso mi ha sempre affascinato la natura e le piante in particolare. Poi ultimamente, durante il Covid, soprattutto avendo parecchio tempo libero, mi sono anche educato in un certo modo su tutte quello che possono essere le piante, le varie specie, perché succedono alcune cose e quindi mi hanno sempre affascinato. In più, appunto, li ho sempre considerati degli individui a tutti gli effetti, gli alberi, da sempre, fin da quando sono piccolo. Quindi il fatto di potergli ridare un'identità con un volto o un soggetto di qualsiasi tipo mi ispira, ecco, è come se fosse una ricerca archeologica, nel senso spesso scavi e poi scopri delle cose su quella pianta, su quello che le è successo, spesso scavando in questi tronchi. Ho trovato chiodi molto antichi, ho trovato una scheggia di bomba una volta, della Seconda Guerra Mondiale, mi è capitato anche di trovare in un ulivo di quelli di ostuni super secolari un nido con le uova, tutto pietrificato, molto, molto figo. E tra l'altro alcune di queste piante effettivamente poi riprendono vita. È successo a Via Jenner, ad esempio. Sì, sì, il servizio giardini lì l'aveva abbattuta probabilmente, solo che era continuata a germogliare, quindi è stato molto strano quando è successo, ecco, non me l'aspettavo. Però è stata una piacevole sorpresa perché sembrava come se fossero dei capelli, insomma, una continuazione della pianta. L'altro aspetto importante e interessante è che è arte fruibile da tutti, arte cittadina con cui hai modo anche poi di interagire, come ci racconti. Sì, è fruibile da tutti, ma allo stesso tempo no, perché ci vuole un'attenzione particolare che non tutti hanno, a parte che devi andare a piedi in effetti, però in generale ci vuole secondo me una sensibilità particolare per vederle e poi ovviamente anche per apprezzarle. Quindi ogni volta che trovo persone a cui piacciono, che insomma hanno reazioni positive, mi fa molto piacere perché credo che siano persone con una sensibilità particolare. Ce ne sono di più, molte di più di quanto pensassi in giro. Come scegli i luoghi? Come farebbe un graffitaro, quindi cerco degli spot, si chiamano, più visibili possibili, più trafficati, e poi faccio l'opera lì. Ovviamente anche il tronco deve essere di un certo tipo, se no non potrei lavorarci. A partire dai primi lavori, come si sta sviluppando la tua attività? Mi sto spostando lentamente verso degli interventi più grandi, quindi queste opere piano piano stanno diventando vera e propria land art, nel senso che arte ambientale, arte del paesaggio. Certe volte mi è capitato anche di fare sculture alte 20 metri, quindi interventi molto massicci che richiedono mesi di lavorazione. e quello è quello che mi piacerebbe fare, ecco, e lo faccio per fortuna. Comunque, come si vede anche nel documentario, hai un tuo laboratorio. Sì, adesso ne ho un altro, l'ho cambiato, ho preso questo laboratorio a dicembre che è decisamente molto più grande di quanto mi serve, e quindi ho iniziato questo nuovo hobby. Praticamente io prendo dei tronchi, i più grandi possibili che riesco a trovare, e poi ho comprato un marchingegno per cui li faccio a fette, e poi io in pratica sono pieno di tutte queste fette sovrumane di tronchi, e mi sto appassionando tantissimo perché in queste sezioni, in queste tavole, tu vedi tutta la storia di quell'albero, tutte le venature, le tensioni, certe volte anche magari in piante che sembrano un po' schifose, le apri, hanno una marmorizzazione incredibile all'interno, e quindi quello è il mio nuovo hobby. Quindi arte di strada, arte pubblica, però anche commissioni private. Sì, sì, sì, capita. Ci dai tutti i tuoi riferimenti web per vedere? Facebook, Instagram, sempre Andrea Gandini, e poi c'è il sito. A proposito di arte di strada, sei stato contattato anche dalle istituzioni per questi lavori? Sì, sì, spesso le commissioni private in realtà sono commissioni pubbliche, perché sono magari comuni che vedono un valore anche estetico nell'opera e quindi la vogliono avere nel loro comune, e quindi capita spesso di andare anche in luoghi molto belli, spesso anche è capitato insomma UNESCO eccetera eccetera, quindi protetti, e mi piace molto fare questo tipo di interventi perché posso dare la mia impronta a un paesaggio più anche urbano e scoprire dei luoghi che non sapevo neanche esistessero, dalle montagne della provincia di Foggia alle colline toscane, alle villone vicino ai laghi di Como, insomma ho visto un po' tante sfaccettature del nostro paese che non sarei mai aspettato esistesse. Un saluto e un ringraziamento ad Andrea Gandini che ci ha parlato della sua arte di strada. Un abbraccio e a presto. Grazie Federico, sei stato gentilissimo. Con Simonetta Gola di Emergency per presentare il libro Una persona alla volta di Gino Strada in libreria da aprile del 2022. Ben trovata. Buongiorno a tutti. Che racconto è questo? È un racconto su due temi che erano molto cari a Gino, il tema della guerra e il tema del diritto alla salute. Aveva questa convinzione maturata con il suo lavoro in posti colpiti dalla guerra o in posti colpiti dalla povertà, che la salute dovesse essere un diritto garantito a tutti, non poteva diventare un bene di mercato, e che la guerra andava sempre evitata a qualunque costo, perché la guerra è innanzitutto morte di esseri umani innocenti. Queste erano le convinzioni che avevano guidato Gino nella sua vita e che avevano guidato il suo lavoro, e continuava a portarla avanti perché vedeva un'incapacità, una indifferenza, una difficoltà a capire che questi erano dei problemi da affrontare in un modo diverso. Quando noi pensiamo che per garantire le cure alle persone, le persone debbano comunque contribuire o con una parte o con tutto della spesa, noi non stiamo rispettando una delle condizioni essenziali alla vita e alla sopravvivenza delle persone. E quando pensiamo che la guerra a un certo punto sia inevitabile, non capiamo o accettiamo che ci siano delle vite sacrificabili per altri obiettivi. Queste due cose per lui erano due grandi battaglie che ha portato avanti sempre. Per chi ci ascolta e non conoscesse la realtà di Emergency, di cosa si occupa, in quanti paesi e quante persone coinvolge? Emergency è nata 28 anni fa per portare cure gratuite di qualità alle vittime di guerra e alle mine antiuomo. Poi abbiamo allargato la nostra attività anche a portare cure in paesi colpiti da povertà. Abbiamo ospedali, centri sanitari, centri di riabilitazione, centri di maternità, progetti anche sociali come progetti penso di riabilitazione e reintegrazione sociale in Iraq, dove facciamo un training alle persone che hanno subito una mutilazione, facendo dei corsi di formazione professionale in modo tale che possano continuare a vivere avendo un altro lavoro, imparando a fare cose nuove, fanno altri lavori, e li aiutiamo ad aprire delle cooperative, e lavoriamo in 9 paesi. Che importanza ha per te questo libro, e se ha rivelato, ti ha rivelato anche delle cose su Gino? È un libro molto importante per me perché è un libro a cui stavamo lavorando e che avremmo dovuto finire nelle vacanze in cui poi Gino è morto. È un libro importante che mi rivela oggi quanto la voce di Gino sia potente anche ora che lui non c'è. Il libro ha grande ascolto, mi scrivono tante persone che in qualche modo vedono una via etica in quello che lui ha scritto da poter continuare a seguire, quindi penso che sia un libro che comunque continua a seminare le parole e le idee di Gino. Stai girando l'Italia per presentarlo, siamo in un clima di informazione di guerra in cui il pacifismo è messo all'angolo. Che impressioni ne stai ricavando frequentando le persone? Le persone che vengono alle presentazioni probabilmente sono già interessate al tema o al lavoro che Gino ha fatto. Io penso che ci sia voglia di anche discutere su questa ultima guerra. È una guerra che pone tantissime domande, sicuramente la questione dell'aggressione è una questione sotto gli occhi di tutti, quindi è evidente che ci possa essere in qualcuno l'idea che si possa affrontare l'aggressione rispondendo con le armi, e sono tutti temi di discussione importanti. Io penso che l'Ucraina abbia tutti i diritti di difendersi, penso che noi come comunità internazionale e soprattutto come Europa avremmo potuto giocare un altro ruolo, quindi fatto salvo ovviamente il diritto di difendersi dell'Ucraina, ci poteva essere un altro modo di intervenire da parte di chi non era direttamente coinvolto nel conflitto per far finire il conflitto. Ora che abbiamo preso parte inviando le armi, ovviamente è molto più difficile. Durante la presentazione del libro a Grosseto, al Festival Resistente, si parlava del ruolo che dovrebbe avere, che avrebbe dovuto avere l'ONU, le Nazioni Unite, soprattutto per quanto riguarda un'ONU riformata, quindi relativamente al diritto di veto che spesso ha bloccato molte risoluzioni, e come possibile forza di interposizione che dovrebbe evitare i conflitti. Diciamo che noi ci chiediamo sempre cosa fare per affrontare una guerra quando la guerra è già in corso, e di solito quando abbiamo fatto anche delle mosse per consolidarla come abbiamo fatto adesso. Così come ci prepariamo alla guerra acquistando armi eccetera eccetera, ci si dovrebbe preparare alla pace prima, cioè è difficile poi che per anni non si è fatta una riforma dell'ONU, si è lasciato che si indebolisse, non si sono affrontati problemi fondamentali come quello del diritto di veto, e poi è ovvio che quando scoppia una guerra l'ONU è debole. La pace va preparata. È difficile pensare che si fanno delle scelte, si prende consapevolmente una strada che è quella della risposta o del sostegno armato e poi si può tornare indietro. Ci sono tante cose che si possono fare per preparare la pace. Ad esempio, si sarebbe potuto intervenire quando è cominciato nel 2014 il conflitto, che per noi europei era ben evidente, esisteva ed era sotto gli occhi della diplomazia internazionale. Per tanto tempo lasciare le situazioni che vadano come vadano senza un'azione attiva per far rispettare, in questo caso ad esempio, gli accordi di Minsk, diventa sempre poi difficile dire voi pacifisti cosa fareste nel momento in cui la guerra c'è e si è scelta e si è investito su quella strada invece che investire su un'altra. Un'altra questione aperta non riguarda la guerra, ma per certi versi sì, perché la guerra al coronavirus in Italia, già durante la prima ondata si parlava di una necessaria riforma del sistema sanitario e una maggiore attenzione alla medicina di base e anche ai finanziamenti relativi alla sanità pubblica. Come vedi tu questa pandemia? Ci ha fatto capire quanto tante esitazioni, tante scelte errate stiamo facendo perché non consideriamo più la salute un diritto universale, non di tutti quantomeno. Penso alla questione ovviamente di come è stata gestita con le risorse che mancavano, penso alla questione delle terapie intensive che era sotto gli occhi di tutti, alla questione della medicina di base che era stata smantellata a favore dei grandi ospedali. Penso anche al tema del vaccino, cioè il tema del vaccino ci ha dimostrato che pensare che il diritto alla salute possa essere tutelato solo per alcuni, quindi paesi ricchi che hanno potuto acquistare, hanno investito nel vaccino e hanno potuto acquistarne molte più dosi di quelle necessarie per tutelarsi, senza pensare che nei paesi poveri la libera circolazione del virus avrebbe potuto favorire l'insorgere di varianti. Così è stato. Se non riusciamo a concepire il mondo come un'unica comunità, dove certi problemi non possono essere affrontati più localmente, ci sono dei problemi che sono complessivi, questo della pandemia, era evidentemente una pandemia, riguarda tutti, ma noi l'abbiamo affrontato solo per una parte del mondo. Ci siamo garantiti i vaccini, si sono sviluppate varianti altrove. Abbiamo bisogno di cambiare veramente lo sguardo sul mondo, perché questo arroccamento che noi abbiamo non è più sostenibile in un mondo globale, dove ci sono problemi globalizzati, ma dove le persone si possono spostare. Penso che la pandemia avrebbe potuto insegnarci queste cose, fino adesso non mi sembra che l'abbia fatto. Abbiamo, soprattutto nella prima fase della pandemia, pensato a quanto erano importanti gli ospedali, a quanto avremmo potuto potenziare gli ospedali, a quante risorse avremmo dovuto mobilitare per ripristinare delle terapie intensive o una medicina del territorio. Però al momento non ci sono state azioni in questo senso. Quindi la prossima pandemia saremo in grado di affrontarla? Il libro Una persona alla volta di Gino Strada, in libreria da aprile 2022. Un saluto e un ringraziamento a Simonetta Gola di Emergency, che lo sta presentando in giro per l'Italia. A presto! Grazie, arrivederci. Eccoci all'agenda per il teatro della settimana e anche per gli eventi culturali. Ciao Simone, con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Partirei con un lavoro del Teatro Porticciolo, siamo al 17 maggio, ovvero sia questa sera, ma sarà poi in scena anche il 25, intorno al 25, con un lavoro dedicato alla giornata internazionale contro l'omo, lesbo, bitransfobia, che il Teatro Porticciolo inizia con un incontro con Mattia Zecca, autore del libro Lo capisce anche un bambino, anche se lo capisce anche un bambino, nel senso che c'è la schwa alla fine del, non so come dirla se non in questo modo, spiegandola nel titolo, e appunto è una rassegna, questa dedicata al tema delle adozioni LGBTQ+ e delle famiglie arcobaleno, e appunto il libro di Mattia Zecca racconta questa storia personale, una famiglia composta da due papà e due figli che la legge italiana costringe all'invisibilità. Poi, oltre all'incontro che sarà con Marilena Grassadonia, coordinatrice dell'Ufficio Diritti LGBTQ+ di Roma, e ci sarà poi a seguire alle ore 21, questo è 18.30, questa sera, Venere Adone, lo spettacolo della Compagnia Alice Raniera di e con Danilo Giuva, sarà sull'amore, quella condizione che pone ogni essere umano che si trova a dover gestire i primi tormenti dell'amore, quella linea di confine tra l'essere e il sentire, su cui bisogna trovare un proprio punto di equilibrio in cui stare. Questo questa sera, poi il 25 ne parleremo, sarà un incontro con Liv Ferracchiati, di cui parleremo più avanti. Per ciò che riguarda invece il Teatro Parioli, due interpreti come Nancy Brilli e Chiara Roschese alle prese con la regia di Leo Muscato per però un testo di una scrittrice di letteratura, ovvero sia Margaret Mazzantini, il suo secondo romanzo, Manola, trova appunto la via del palcoscenico e sarà in scena dal Parioli dal 18 al 22 maggio, e si tratta di due sorelle gemelle in contrasto tra di loro come due pianeti opposti nello stesso emisfero emotivo. Quindi nel loro essere gemelle anche la grande diversità e quindi tutto ciò che poi rappresenta la difficoltà di vivere due vite in qualche modo in una, per tutto ciò che riguarda il rapporto tra sorelle e gemelle, lo andremo a vedere da 18 al 22 maggio, la regia di Leo Muscato al Teatro Parioli. Poi il 18 maggio, ovvero sia domani alle 19 allo Spazio Rossellini, sarà l'occasione per vedere Ramona e Giulietta, questo lavoro shakespeariano dedicato a Shakespeare, ovvero sia è all'ingresso gratuito allo Spazio Rossellini, scritto e diretto da Francesca Tricarico con le attrici detenute del carcere di Re Bibbia, che oggi vanno in scena libere, e questa è una cosa molto importante. E lo spettacolo viene poi preceduto da una presentazione del progetto Le Donne del Muro Alto, appunto, che è quello che dal carcere porta alla libertà attraverso il teatro, sempre curato da Francesca Tricarico. Quindi domani sera, 18 maggio, Spazio Rossellini per Ramona e Giulietta. Ancora andiamo al Teatro Belli, perché 20-22 maggio ritorna un testo di Nick Payne, Constellations, Costellazioni, che avevamo già visto con la regia italiana, in questo caso la regia di King T. Sharp, e in scena ci saranno Francesca Ravera e Michael Chilworth, che porteranno appunto lo spettacolo in lingua originale con sovratitoli in italiano, e questo è interessante, difficilmente si vede spettacolo in lingua originale a Roma. C'è una coppia improbabile e si incontrano Marianne e Roland, lei è una scienziata, lui un apicoltore, si incontrano ad un barbecue. Cosa nascerà tra di loro, quali saranno le caratteristiche della loro storia, storia d'amore, lo andremo a vedere con Constellations dal 20 al 22 maggio al Teatro Belli di Roma. Poi, per ciò che riguarda sempre il Teatro Quarticciolo, ma non lo avevo segnalato, nell'ambito di PPP 100 Roma incontra Pasolini, dal 20 al 22 maggio andremo a vedere L'ala destra del Dio di Cuoio, omaggio Pasolini di Luciano Melchionna, che porta questa sua regia e anche lo interpreta, anche su scrittura, insieme a Sara Bilotti, interpretata da Veronica Delia e Sara Esposito, al teatro appunto Biblioteca Quarticciolo, ed è l'omaggio di Appia e Paolo Pasolini e al suo amato gioco del calcio, un calcio di porte costruite nel fango, maglioni arrotolati ai paletti, così lo viene segnalato e così poi me lo ricordo anch'io. C'è una scena bellissima di Una vita violenta all'inizio del romanzo in cui Tommasino corre nella sua periferia di Pietralata e si butta in mezzo a una partita in cui non è invitato, però vuole e deve giocare assolutamente, e lui crede di essere Pandolfini, che all'epoca era insomma l'attaccante della Roma, come noi avremmo detto di Totti o di chissà chi altro in epoca più recente. Quindi questa grande passione per il calcio e Pasolini dal 20 al 22 maggio al Teatro Quarticciolo. Ho già parlato del teatro dello spazio Rossellini, ma ne parlo ancora perché dal 20 al 22 maggio c'è uno degli spettacoli più interessanti della settimana, perché ha vinto numerosi premi. Si tratta di Casa Nostra, la compagnia è Ombre Collettivo ed è un lavoro dedicato al processo Stato-Mafia, ma lo fa attraverso il teatro di figura, una commistione con il teatro di figura. Siamo il 23 settembre del 2021, la sentenza della Corte d'Assise di Palermo sul processo Stato-Mafia riporta alla memoria un pezzo del passato, un pezzo che è già diventato storia. Andiamo quindi a ripercorrere con la regia di Riccardo Reina i segreti di Cosa Nostra, ma attraverso appunto questa forma dedicata fondamentalmente a teatro per le nuove generazioni. Quindi ecco, la mafia raccontata ai bambini, la possiamo dire così? Non lo so, lo andremo a vedere e ce ne faremo un'idea. Io assolutamente vorrei non mancare, perché l'idea mi piace tantissimo. Dal 20 al 22 maggio allo spazio Rossellini. Andiamo anche questa settimana al Teatro di Roma, perché c'è la Medea il 19 maggio di Dario D'Ambrosi con la compagnia stabile del Teatro Patologico. È un progetto di una versione particolare di Medea di Euripide, che conclude l'anno del corso di teatro integrato dell'emozione che viene portato avanti all'Università Tor Vergata. I ragazzi diversamente abili, insieme a loro ci saranno gli attori professionisti Sebastiano Somma e Almerica Schiavo. Il Teatro Patologico, abbiamo parlato varie volte, è uno spazio meraviglioso appunto che ospita ragazzi disabili che si sentono e continueranno a sentirsi finalmente protagonisti. Lo spettacolo è stato presentato un po' in tutto il mondo, in realtà finalmente lo vedremo a Roma in data unica al Teatro Argentina, 19 di maggio. Mentre invece al Teatro India, da questa sera, uno spettacolo che ho già visto, sarà in scena fino al 29 maggio, il testo è di un grande drammaturgo recente, scritto nel 1986, 3 anni prima di morire, Nella solitudine dei campi di cotone, Bernard Marie Coltès. La regia è quella di Andrea De Rosa, in scena due attori importanti, l'astronascente Federica Rosellini e l'ormai consolidato, ma comunque sempre ancora giovane, però grande attore, Lino Musella. Andremo appunto al Teatro India per questa versione di Andrea De Rosa, regista di grande qualità e di cui abbiamo visto anche recentemente Solaris e tanti altri lavori in passato, ed è un lavoro molto, molto particolare, perché Ci sono due individui che si incontrano, il venditore ha qualcosa da vendere, il cliente sembra interessato all'affare, dice che forse comprerà. Non viene rivelato mai l'oggetto né la ragione della transazione. Un mercato misterioso che viene condotto nella notte fra ellissi e allusioni. Questa è l'immagine da cui inizia, da cui prende vita il testo, che ovviamente si carica poi di una stratificazione di altri significati che dobbiamo andare a scoprire assolutamente. 17-29 maggio al Teatro India. Ancora ricordiamo qualcosa, c'è il Teatro Basilica, perché 20-21 maggio ritorna a Roma Cristian Ceresoli, un suo testo Happy Hour per la regia di Simon Boberg e in scena Stefano Cenci e Silvia Gallerano. Si tratta di un testo scritto da Ceresoli che viene diretto da questo regista danese Simon Boberg, che ricordiamo avevamo conosciuto Ceresoli e Gallerano per il fortunato spettacolo La Merda, andato in scena ormai tanti anni fa, ma che continua anche la sua tournée incredibilmente. Si tratta di un bambino, un campione del mondo, invece, e questo è Kerfuffel. Invece Ado è la sua sorellina, è una femmina, ma mio papà sono felici, anche perché è obbligatorio esserlo. E questo lavoro è Happy Hour, è una partitura, una città, insomma, in cui avvengono divertentissime deportazioni di massa, in cui si afferma il più colorato dei fascismi, quindi dedicato al fascismo, al potere, alla deriva dell'umanità, questo lavoro, per Cristian Ceresoli, Happy Hour 20-21 maggio, Teatro Basilica. Abbiamo ancora al Teatro Basilica un altro lavoro e sarà proprio questa sera alle ore 21 La Pescatrice di Perle, il lavoro che ha vinto il premio stampa a Roma Fringe Festival 2021, diretto da Valeria Simone e interpretato da Marianna Di Pinto con le scene di Michelangelo Campanale, la compagnia pugliese si chiama A Casa ed è in collaborazione con La Luna nel Letto, e parte una riflessione che parte dall'esperienza di apolide rifugiata della filosofa Anna Arendt sul collasso dell'etica, un pensiero, una riflessione che Anna Arendt sicuramente ha portato all'attenzione della società, se contemporanea, e che andremo a ritrovare in teatro questa sera al Teatro Basilica per La Pescatrice di Perle. Ancora è la settimana questa di tornare al Palladium per Orbita, nella prima Romana uno e Nazionale l'altro, di un doppio lavoro di Dunja Jocic. Il primo lavoro si chiama Bird, il secondo si chiama The Previous Owner. Dunja Jocic, il primo lavoro, viene presentato insieme a Marinus Grufhoff, sarà il 21 maggio, quindi la danza di Orbita. Invito a vedere anche le immagini di questo lavoro per andare, per farsi stimolare dall'andarlo a vedere. Una coreografa di origine serba che però risiede ad Amsterdam, Dunja Jocic, porta questi lavori, primo l'indagine sulla libertà, appunto Bird, e il rapporto di un bambino e una madre che è una diva dell'opera e dall'emancipazione, insomma, del bambino dalla presenza femminile. E invece The Previous Owner, che sarà sul palco appena a seguire, si inserisce nel dibattito filosofico e culturale sul transumanesimo, concentrato sulle possibilità e i limiti di espandere le capacità fisiche e cognitive dell'uomo attraverso la biotecnologia. Questo sarà il doppio lavoro presentato da Dunja Jocic al Teatro Palladium il 21 maggio. Ancora piccole cose, anzi, no, piccole, una piccolina, ma lo diciamo perché insomma è importante. Il viaggio in Sardegna di Stefania Masala, una Sardegna in continente, con la regia di Patrick Rossi Gastaldi, 21 e 22 maggio all'Altrove Teatro Studio, dedicato alla meravigliosa terra di Sardegna. E due cose poi infine, una al Teatro Vittoria. I vincitori del premio Attilio Corsini, appunto del Teatro Vittoria, saranno in scena dal 17, da questa sera, fino al 22 di maggio. Si tratta del spettacolo In ogni caso nessun rimorso, che viene ispirato al romanzo omonimo di Pino Cacucci con appunto la regia di Mauro Pasqualini. È una storia vera, una storia che parla della vita vera di Jules Bonneau, operaio, soldato e autista dell'autore di Sherlock Holmes. Parla del suo sogno di una felicità rabbiosa, da lungo tempo accarezzata, che lo trasforma nel primo rapinatore a usare le automobili e nell'anarchico Ecco, convinto di dover colpire la società borghese senza mezze misure. Questa ragnatela di esperienze dietro il romanzo di Pino Cacucci, che arriva in teatro con la regia di Mauro Pasqualini al Teatro Vittoria 17-22 di maggio. Ultimo lavoro di cui andiamo a parlare, che è la produzione Compagnia Lombardi Tiezzi, ma e lo spettacolo della compagnia Forte Braccio Teatro, Roberto Latini e Gianluca Misiti, con la luce e la tecnica di Max Mugnai, portano in scena alle Carrozzerie Notta dal 20 al 22 maggio il Cantico dei Cantici, spettacolo meraviglioso, uno dei testi più antichi di tutte le letterature, dolce e profumato, immaginifico, misterioso, un inno alla bellezza insieme timida e un bolero tra ascolto e relazione, astrazione e concretezza. Lo dico perché c'è scritto, ma lo dico anche perché è tutto vero. Io lo spettacolo l'ho visto e merita davvero di andarlo a vedere. Vi prego, non svegliate il mio amore che dorme, ci dice Roberto Latini, e andiamo ad ascoltarlo in scena dal 20 al 22 maggio alle Carrozzerie Notte. Ciao a tutti! Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.